edizione. Allora diamo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola e anche a qualche spunto che troviamo invece sui quotidiani esteri. Iniziamo questa mattina dalla Repubblica, il titolo più o meno è lo stesso, il Corriere della Sera, quindi la notizia è la stessa: l'ammutinamento del Concordia, basta, evacuiamo noi la nave. Schettino sempre al telefono con la Costa dopo la collisione, ma non prese decisioni. E poi si parla anche naturalmente dell'incubo ecologico. Lo tema che toccheremo più avanti, ve lo dicevamo, con il ministro dell'ambiente Corrado Clini. Questo il quadro, l'inchiesta, un pezzo a firma di Carlo Bonini e Marco Mensurati, il cui titolo dà già l'idea del contenuto e del racconto che c'è dentro, è tra virgolette ed è comandante ordini qualcosa. Il pezzo di Jenner Meletti sul quadro ambientale è Corsa contro il tempo, l'olio sporca, già sporca il mare. Gli altri tre temi che troviamo sulla prima pagina di Repubblica sono la questione di Draghi, naturalmente, che dice crisi grave, Standard & Poor's boccia anche il fondo salva stati, e due pezzi a firma di Andrea Bonanni e Alberto D'Argenio, la guerra mondiale dei debiti e il professore, è un retroscena quello di Alberto D'Argenio, che dice servono 1.000 miliardi, si parla di, quando si parla del professore in questo caso si parla di Mario Monti, e altre due vicende, quella dei 5 arresti per una vicenda che tocca ancora una volta l'amministrazione della regione Lombardia e il PDL Lombardo, ricercato un ex assessore del PDL, il governatore smentisce cosa? Smentisce quello che troviamo nel titolo, pagai le vacanze a Formigoni, l'ultimo scandalo della regione. E poi la vicenda di cui vi dicevamo prima, trovato impiccato in una baracca uno dei killer della neonata cinese, questo è il titolo di Repubblica. Il Corriere della Sera, apertura come vi dicevamo anche qua, sull'ammutinamento per salvare i passeggeri, allarme per i dispersi, sarebbero saliti a 29, il relitto si sposta, rischio di disastro ecologico, il pezzo in questo caso è a firma di Marco Imarisio. La telefonata è quella della Capitaneria di Porto ed è tra virgolette, il racconto tra virgolette di Fabrizio Caccia è: capitano, forse vuole andare a casa? Nel frattempo i naufraghi preparano la class action alla Costa, la lista dei dispersi, vi dicevamo che c'è un quadro abbastanza incerto, il mistero dei turisti tedeschi. Questo il quadro per quanto riguarda i servizi che riguardano la Costa. C'è naturalmente spazio anche per Draghi, la situazione è peggiorata, dice il presidente della Banca Centrale Europea, anche per la vicenda del killer di Roma che è morto impiccato e per l'inchiesta sulla regione Lombardia. Frodi e corruzione, interessante questo pezzo, poi naturalmente approfondiremo come naturale nel corso della rassegna stampa più avanti con Alessandro Milan. Frodi e corruzione, 6 miliardi bruciati dagli statali, a firma di Fiorenza Sarzanini. Il Sole 24 Ore, l'apertura come potete ben immaginare su Draghi, crisi molto grave, agire subito, attuare le decisioni sui fondi salva stati, meno dipendenza dalle agenzie di rating, un commento di Alessandro Platerotti in prima pagina, dedicato al presidente francese: caro Sarkozy, l'Europa non può attendere. Da segnalare sul Sole 24 Ore anche l'intervista al presidente della Consob, Giuseppe Vegas, che dice: abbiamo chiesto all'ESMA di indagare sul declassamento di Standard & Poor's di 9 paesi europei. La nostra impostazione di partenza, dice Vegas, è stata seguita. Un commento in prima pagina dedicato anche alle liberalizzazioni: concorrenza vuol dire equità, a firma di Luigi Guiso e Fabiano Schiavardi. E l'intervista a Mario Monti al Financial Times, il premier all'FT, obiettivo ridurre i tassi, Monti, la Germania faccia di più per i paesi con un debito elevato. È interessante in tema di liberalizzazioni il fatto che ritorni l'ipotesi dello scorporo tra Eni e Snam Rete Gas, come sapete quell'ipotesi che era stata esclusa qualche giorno fa dal sottosegretario Catricalà, il quale aveva detto, signori, non è una proprietà. E, vi segnaliamo anche da leggere, decisamente da leggere, il commento di prima pagina di Attilio Geroni sulle conseguenze della tragedia della Costa, quell'immagine italiana naufragata con la Concordia, e questo il titolo nel quale si fa riferimento anche al peso del turismo sul nostro prodotto interno lordo. Veniamo alla Stampa, c'è una foto con grande foto, le prime immagini dei sub della Guardia Costiera all'interno del relitto. Il mistero della Concordia, i dispersi sono 40, e diventano 40 addirittura. Questo dispersi sono 40 è, tra virgolette, quindi è chiaramente la fonte, insomma, non è direttamente il giornale che lo scrive, probabilmente è qualcuno che lo racconta. E la lista della prefettura è diversa da quella annunciata e le vittime sono salite saliti a sette i morti. Naturalmente titolo anche su Draghi, il quadro è peggiorato, crisi molto grave, e Monti che preme sulla Merkel, agisca o temo reazioni negative. Abbiamo un commento di Marcello Sorgi, la strada obbligata per i partiti, e poi è interessante, ne avrete sentito parlare anche nella giornata di ieri, i dati sugli studi di settore. Molti professionisti denunciano meno degli operai, tassisti e orafi da 1000 euro al mese. La Stampa ritorna sulla morte di Carlo Fruttero e ci racconta che ci sono tre inediti: I Promessi Sposi, Calvino e Collodi, le schede dello scrittore per un progetto di lettura con Fabio Fazio, e L'ultima volontà, un party da Dio. Ci racconta anche una storia interessante Maurizio Molinari, che è il corrispondente dagli Stati Uniti per la Stampa. Nelle scuole di Long Island, bracciali elettronici per i bimbi obesi, iniziativa del distretto scolastico per monitorare gli alunni, così mangiano meno, genitori in rivolta. Il Messaggero, l'apertura: ritardi e caos, crescono i dispersi, per la Capitaneria sono 29, molti tedeschi, recuperata la sesta vittima. E poi ci sono le telefonate: la Guardia Costiera a Schettino, comandante che fa, va a casa? E poi un commento in prima pagina di Folco Quilici, il disastro ambientale che minaccia il nostro mare. E interessante anche qua sulla stessa linea di quel che abbiamo visto nel commento di Attilio Geroni, l'onda nera sull'Italia a firma di Paolo Graldi. Giuseppe Vegas, intervistato anche dal Messaggero, l'Europa si muove, agenzie di rating inaffidabili, il titolo su Draghi che dice che la situazione è grave, e poi titolo molto forte di taglio basso, naturalmente, per il quotidiano romano, impiccato uno dei killer di padre e figlia cinesi. E in prima pagina il Messaggero, tra i pochi, tra i grandi quotidiani che riporta il tema, la notizia della libertà di Sofri, torna libero Adriano Sofri. Dai quotidiani internazionali prendiamo due storie molto, molto rapidamente. La prima arriva dagli Stati Uniti. L'amministrazione Obama starebbe pensando, per ridurre i conflitti di interesse tra i medici e le compagnie farmaceutiche, di obbligare le stesse compagnie farmaceutiche a rendere pubblici tutti i pagamenti che loro fanno ai medici per la ricerca, per la consulenza, per gli speech che gli chiedono nei convegni, per i viaggi e per l'intrattenimento, anche perché naturalmente c'è anche questo. Molti ricercatori, spiega il New York Times, ma tutto sommato lo sapevamo, hanno trovato prove che questi pagamenti possono influenzare le decisioni sui trattamenti da parte dei dottori e le decisioni sulle cure da parte dei medici. Ovviamente vi segnaliamo appunto un'intervista del Financial Times di Mario Monti, corredata da un commento del Financial Times che dice bisogna parlare duro, bisogna parlare il linguaggio della verità al potere tedesco. Bosco, e chiude, giusto per darvi l'idea, dicendo Mr. Monty must not be a voice in the wilderness. Mario Monti non deve essere una voce, noi diremo una voce nel deserto. Vi segnaliamo invece dal Telegraph la vicenda dell'ipotesi del ministro per la casa britannico, e che cosa dice? Sta proponendo che gli anziani, dato che c'è un problema di carenza di abitazioni, sta proponendo che gli anziani si spostino dalle loro case eccessivamente grandi, queste case le prenda in gestione il governo e gliele affitti lui alle famiglie, alle famiglie più grandi, e loro si spostino in appartamenti più piccoli. Vedremo che cosa succederà da questo lato, sicuramente anche questa è una proposta che farà discutere quantomeno gli inglesi. Prima edizione. Le 6:33 minuti e 47 secondi, è il momento d'Italia in controluce. Italia in controluce. E il mattino in diretta su Radio 24 vi parla Daniele Biacchese. Giustizia e legalità per la crescita del paese. Oggi, martedì 17 gennaio, per tutta la giornata a Roma l'Associazione Nazionale Magistrati riunisce le più alte toghe, i rappresentanti della politica, l'imprenditoria, il mondo del lavoro. È il segnale di un'inversione di tendenza, lo dice il presidente Luca Palamara, intervistato oggi da Raffaella Calanda. Vogliamo fornire il nostro contributo, quello per far funzionare meglio l'Italia. Su corruzione, evasione fiscale e riciclaggio. Questi temi sono oggi temi in primo piano nel dibattito politico. La vostra convinzione è che una ripartenza del paese passi attraverso la lotta a queste piaghe? Negli ultimi anni purtroppo il dibattito sulla giustizia è stato distorto. Noi diciamo che le risorse possono essere recuperate attraverso una seria lotta alla criminalità e in particolar modo alla corruzione, all'evasione fiscale e al riciclaggio. La giustizia vista come risorsa per i cittadini. Formuleremo sicuramente delle proposte che vanno dalla necessità di prevedere delle pene più alte per quanto riguarda il reato di corruzione propria e impropria, per quanto riguarda la incriminazione, quindi la previsione di nuove fattispecie penali con riferimento al traffico di influenze illecite e della corruzione dei privati, con la possibilità di individuare meccanismi attraverso i quali sequestrare e confiscare. Lo stesso discorso andrà fatto con riferimento alla lotta all'evasione fiscale. La stessa riforma della giustizia è stata inserita dal governo Monti tra i passaggi necessari per la ripartenza del paese. In questa giornata di studi c'è anche il ministro della giustizia, è anche un'occasione per ripartire con un nuovo clima nei rapporti tra politica e giustizia? Assolutamente sì, per noi questa rappresenta la fase 2. Se da un lato noi ci poniamo il problema di come recuperare le risorse, dall'altro lato siamo ben consapevoli di quello che ci chiede l'Europa, di far funzionare meglio la giustizia in Italia. Dobbiamo assolutamente smaltire l'arretrato. Questo è fondamentale per invogliare le imprese straniere ad investire. Abbiamo voluto estendere l'invito al mondo dell'imprenditoria e al mondo del lavoro. Diventa quanto mai fondamentale determinare un'inversione di tendenza interna alla magistratura, privilegiare l'aspetto della organizzazione, della managerialità, analogamente ad interventi legislativi che noi auspichiamo, una diversa struttura degli uffici giudiziari sul territorio, la famosa revisione delle circoscrizioni giudiziarie, al fine di dare al paese dei tribunali moderni ed efficienti. L'Europa condanna l'Italia per la lentezza della sua giustizia. Voi presenterete delle proposte per riformare questa giustizia, e anche in questo caso, appunto, c'è un segnale di diverso clima nei rapporti con i rappresentanti politici? Veniamo da anni particolari, c'è stato un malinteso contrasto tra politica e magistratura che ha avuto un unico sconfitto, i cittadini. Siamo fermamente convinti che il rilancio del paese passi inevitabilmente attraverso anche una seria e vera riforma della giustizia. Era Italia in controluce, vi ha parlato Daniele Biacchese, torniamo oggi 13:30 Radio 24. Le 6, 37 minuti e 38 secondi. Allora, abbiamo sentito la nostra Raffaella Calandra in questa intervista a Luca Palamara registrata qualche giorno fa. E poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso la nostra Raffaella Calandra e l'abbiamo spedita all'Isola del Giglio, inviata a vedere che cosa sta succedendo per quanto riguarda la Costa Concordia. Buongiorno innanzitutto Raffaella. Buongiorno Simone, a te e al nostro ascoltatore. Allora, la prima cosa che voglio sapere da te è quella alla quale probabilmente stanno guardando tutti, anche gli uomini che lavorano intorno alla Costa Concordia e in mare, è com'è la situazione del mare e del tempo? In questo momento sta per albeggiare qui al Giglio, quindi è ancora buio, ma il mare, forse lo sentite anche in sottofondo, perché ho la nave proprio qui di fronte a me, sono proprio qui sulla estremità del porto. Il mare è grosso e questo è un problema serio, perché già ieri proprio le onde grosse hanno fatto interrompere per quasi l'intero pomeriggio le ricerche, perché questo moto ondoso ha provocato uno spostamento della nave. Il sistema dei laser che è stato posto intorno alla Concordia adagiata sempre su un fianco qui a pochi metri diciamo dal porto del Giglio ha registrato uno spostamento della Concordia di 9 centimetri, per ora è poco, però è già tanto e avanza pericolosamente verso quella scarpata di 70 metri che significherebbe l'inabissamento della nave fin laggiù. Ed era questa appunto la ragione che, per precauzione, anche per la sicurezza di chi sta intervenendo con enormi difficoltà, devo dire, a bordo della nave nella parte asciutta e ancora di più in quella sommersa, che le ricerche ieri erano state interrotte e poi riprese, come ci aveva raccontato anche proprio il capo dei sommozzatori della Guardia Costiera, Rodolfo Raiteri. Sentiamolo. Sono pochi centimetri per adesso e si suppone che sia dovuto all'aumento del moto ondoso. L'inclinazione è rimasta quella, sono dei momenti di flessione dello scafo, però che se fossero eccessivi potrebbero provocare lo scivolamento della scarpata. In questo momento al Giglio, cioè oggi, era anche la giornata in cui diciamo ci si è risvegliati con altre due paure in più. Il primo, un aumento del numero dei dispersi che sono diventati ecco, ora ecco, Raffaella, 29. Raffaella, ti interrompo, perché da questo punto di vista devo dire che c'è stato un discreto caos, nel senso che avevamo un numero che, se non sbaglio, era di 17 fino a 16 che era stato dato dal presidente della provincia. Dopodiché i soccorritori che sono qui dicono di non avere loro direttamente l'elenco completo dei passeggeri, perché viene gestito tutto in prefettura a Grosseto tra la Guardia Costiera, tra appunto la compagnia, la prefettura, e poi c'è un complicato incrocio di dati tra anche i vari consolati, perché si tratta moltissimi, anche sono stranieri, il gruppo più consistente sarebbero i tedeschi. Proprio dall'allarme lanciato dalla polizia tedesca ieri, che segnalava l'assenza tra le loro liste di 10, forse 12 turisti, a quel punto si è rimessa in moto diciamo una nuova operazione di incrocio di dati, e fino al dato che il capo della Guardia Costiera ieri sera ha dato di 29 dispersi. Quindi questa è prima di tutto una nuova realtà con cui qui al Giglio si fa i conti, chiaramente molto drammatica, insieme al cercare di prevenire anche il disastro ecologico, tanto è vero che la nave è stata circondata anche da alcuni mezzi mandati dal Ministero dell'Ambiente, alcuni galleggianti, proprio per cercare diciamo di monitorare e allo stesso tempo anche cercare di prevenire l'eventuale diciamo fuoriuscita del carburante. E questa è ancora un'altra operazione che la Concordia e quindi l'armatore deve affrontare, ossia lo svuotamento svuotamento del serbatoio con 2000 tonnellate di carburante. Simona. Sì, grazie Raffaella, adesso vedremo se avremo poi il tempo di ricollegarci più avanti con te. Nel frattempo io voglio far sentire una testimonianza che hai raccolto ieri, l'abbiamo già sentita nel GR delle 6, però mi sembra significativa, ed è il racconto, come sapete, come forse avrete letto sui giornali, la sera della tragedia, Patrizia Tievoli, sorella di Antonello Tievoli, che è il maître della Costa Concordia, che è del Giglio e del quale si presumeva che protagonista anche lui forse di questo saluto all'isola, annunciava agli amici di Facebook il passaggio della nave davanti. Raffaella, la nostra Raffaella Calandra, ha incontrato la famiglia, la testimonianza del padre Giuseppe Tievoli. Si vedevano le luci e via, ma non è che si fermavano, fischiavano, niente. E quella sera appunto l'avete vista avvicinarsi la nave? Sì, l'abbiamo vista qui fuori, un pochino più in terra, ormai era già caduto il guaio, perché le scuole, lo scoglio delle scuole, da qui saranno neanche un miglio, saranno 500 metri, vedi quel tratto di mare laggiù. Quando avete visto la nave vi era sembrata già più vicina del solito? È un pochino, sì. Dopodiché con vostro figlio vi siete risentiti? Niente, ci siamo più risentiti. Prima edizione. 6:45 minuti e 12 secondi. Buongiorno al Ministro dell'Ambiente, Corrado Clini. Buongiorno. Buongiorno, grazie per essere con noi. Sappiamo che hai minuti contati, nessuno sa contarli meglio di una radio, quindi la terremo naturalmente poco. Allora, Ministro, la prima domanda che le voglio fare è molto, molto brutalmente, se vogliamo, è... il timore è di un disastro ambientale nell'arcipelago toscano? Certo, in relazione alla quantità di carburante che è stivato nei serbatoi c'è un elevato rischio di disastro ambientale qualora i serbatoi si dovessero rompere, cioè non fosse possibile svuotarli e trasferire il carburante su un'altra nave. Che situazione vedete al momento? Molto fluida, per così dire. So che forse l'espressione è inadeguata, però insomma. La situazione al momento teoricamente consentirebbe procedure di svuotamento. Come lei sa, prima di procedere allo svuotamento è necessario completare le operazioni per la ricerca di eventuali superstiti, e queste operazioni richiedono che la nave sia tenuta nell'equilibrio attuale. È evidente che lo svuotamento dei serbatoi potrebbe compromettere questo equilibrio, per cui per il momento si sta lavorando alla definizione del piano di intervento senza però procedere. Questo il quadro. Si è fatto un'idea dei tempi, Ministro? Scusi, non ho sentito. Dei tempi, un'idea dei tempi. I tempi sono strettamente condizionati al completamento delle operazioni di ricerca di superstiti. Allora, lei ha detto che il Consiglio dei Ministri dichiarerà lo stato di emergenza. Questo che cosa consente? Questo consente di organizzare e poi attuare tutte le operazioni necessarie per la messa in sicurezza della nave e per la protezione dell'ambiente in modo molto agile, senza cioè dover seguire procedure ordinarie che potrebbero essere troppo lunghe. Questo il quadro. Tra l'altro quella è una zona... mi chiarisca una cosa, Ministro. Allora, in giornata si era diffusa la notizia che già iniziavano a vedersi delle chiazze di carburante. Lei ha chiarito poi in serata che non si tratta di carburante. Di che cosa si tratta? Ah, questo non lo sappiamo, sai, in una nave di fluidi ce ne sono molti, per cui... potrebbe essere un fluido che viene dallo schiacciamento delle scialuppe di salvataggio piuttosto che dalle cucine, piuttosto che dalla rottura di tubi interni, è difficile dire che cosa possa essere. Al momento quindi esclude la rottura dei serbatoi di carburante della nave? Al momento non abbiamo nessun segnale che i serbatoi siano stati compromessi, siano stati lesi. Grazie a Corrado Clini, ministro dell'Ambiente, per essere stato con noi e per averci dedicato questi minuti. Buon lavoro e buona giornata a lei. E noi però continuiamo a parlare di ambiente. Di ambiente naturalmente anche un po' di rabbia, quella dei cittadini milanesi, ovviamente per una parte dei cittadini milanesi solamente, per la creazione dell'area C, della quale vi parlava poco fa anche la viabilità. Dunque sentiamo l'intervista che ha realizzato con l'assessore alla mobilità Maran, il nostro Paolo Panceri. I dati sulla mattinata ci dicono un calo di oltre il 30% sugli accessi nell'area centrale e soprattutto, che erano le nostre preoccupazioni, ovviamente in questi giorni non c'è stato nessuna criticità né nel traffico fuori dall'area C né sui mezzi pubblici. Ovviamente questo non significa che nei prossimi giorni non si possono rilevare criticità, questo è un provvedimento ovviamente molto importante, però è la dimostrazione che si può fare, si può immaginare una città con sempre meno auto e con mezzi pubblici più efficienti, e che Milano finalmente si sta mettendo alla pari delle migliori esperienze europee da questo punto di vista. Allora, siamo quasi in chiusura, ma prima di andare a chiudere vi diamo un paio di notizie, anche queste arrivate nella notte. Allora, iniziamo dalla Cina soprattutto, e sono delle notizie economiche, quella che, come potete immaginare, quasi paradossalmente, perché si tratta della Cina, viene considerato un rallentamento economico. Allora, l'economia cinese è cresciuta dell'8,9% nel quarto trimestre del 2011, il dato è stato fornito dall'agenzia Nuova Cina. Considerando però tutto il 2011, la crescita è stata del 9,2% rispetto al 10,4% del 2010. Il tasso rimane elevato, con l'inflazione scesa in dicembre al 4,1%. Gli analisti ritengono probabile che non ci saranno modifiche nella politica monetaria e fiscale del governo. Questo tra le notizie della notte. Sono le 6:50 minuti e 58 secondi. È tutto per prima edizione, un ringraziamento a Peter Bescapè in regia, Viola Bottoni in redazione, un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Buona giornata, ci sentiamo tra poco con il giornale radio.